Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Famiglia intossicata da monossido di carbonio a Forni di Sopra, morta una donna di 66 anni, feriti gravi, il marito di 73 e la figlia di 28, che ha lanciato l'allarme al compagno che si trovava in Toscana, gas sprigionato da una caldaia. Lavoro privato in Friuli Venezia Giulia, cresce l'occupazione esclusa l'agricoltura e il lavoro domestico, ma l'inflazione riduce il potere d'acquisto, l'indagine IRES su dati INPS. Santo Stefano sugli sci, Pienone a Tarvisio, più di 3.500 gli appassionati, è arrivata la neve, ma si continua a sparare quella artificiale. Una tradizione di Santo Stefano che oggi non si è rinnovata a causa della bora. Trieste ha annullata la celebrazione della Santa Messa in immersione, celebrata in superficie, visibilità ridotta per le onde. Santo Stefano, l'insegna dei musei aperti a Trieste, gettonatissima la mostra del fotografo Steve McCurry al Salone degli Incanti. Trieste, città di spia, la Casa del Cinema, una mostra esplora la rappresentazione sul grande schermo della città del dopoguerra, luogo che ha incarnato la tensione politica tra le superpotenze. Ancora un cordiale buongiorno e buon Santo Stefano da parte di Maria Spezia ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Dunque, una donna è morta e due persone sono gravi in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio. I tre, due coniugi e la figlia, erano in casa nel comune di Forni di Sopra quando è avvenuto il fatto, probabilmente causato da un guasto al sistema di riscaldamento dell'abitazione. La famiglia intossicata abita a Pordenone, ma è originaria di Forni di Sopra, dove stava trascorrendo un breve periodo di vacanza in occasione delle feste natalizie. Il rilevatore di monossido di carbonio dei vigili del fuoco continua a suonare a distanza di ore dalla tragedia di Forni di Sopra, in Carnia. Vittima una donna di 66 anni di Pordenone, in gravi condizioni il marito di 73 anni ricoverato a Trieste e la figlia di 28 portata all'ospedale di Tolmezzo, residente a Montemurlo nel Pratese. È stata lei a lanciare l'allarme contattando il suo compagno in Toscana parlando di sintomi di vomito e di malessere. La chiamata al 112 da parte dell'uomo ha fatto partire i soccorritori che al loro arrivo hanno trovato la ragazza affacciata la finestra nel tentativo di prendere aria. I vicini riferiscono che avevano acquistato da pochi mesi la loro casa di montagna, ma che già frequentavano in passato la località friulana. In estate erano stati eseguiti dei lavori nell'immobile, raccontano sempre i vicini. È l'impianto di riscaldamento il principale indiziato, la caldaia in particolare, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro insieme ai carabinieri per gli accertamenti tecnici da consegnare alla procura di Udine. La stradina è stata chiusa al traffico per permettere proprio lo svolgimento delle operazioni. Verosimilmente sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo. Forni Sopra, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, intorno alle 4 di questa mattina i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti a Rivignano per l'incendio di un ex fienile, ora adibito a rustico su due piani, fortunatamente isolato, che nel corso della notte ha preso fuoco fino ad essere completamente carbonizzato al suo interno. Il rogo ha forse avuto origine da collegamenti elettrici temporanei allacciati nel corso della giornata precedente per lo svolgimento di una festa natalizia. Le fiamme per fortuna non hanno causato feriti, l'allarme è stato lanciato da passanti presenti sul posto. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 9 gradi, a Gorizia anche 9 gradi, a Udine 5 gradi e mezzo, a Pordenone 4 e mezzo, a Piancavallo 6 e mezzo, a Forni di Sopra 6, a Tolmezzo 3 gradi e mezzo, a Tarvisio meno 3 gradi, a Sappada meno 4, sul Monte Zoncolan 2 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 0 gradi, a Grado 10, a Lignano 6 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: per le prossime ore c'è in prevalenza sereno, al più poco nuvoloso verso l'Isontino e il Carso. Soffierà bora moderata sulla fascia orientale, sostenuta su Carso e Trieste con raffiche forti. Zero termico in rialzo durante il corso della giornata tra 1.500 metri a 2.500 metri circa. Per domani c'è in prevalenza sereno, poco nuvoloso in serata su Alpi e Prealpi Carniche. Soffierà bora moderata su Carso e a Trieste. Saranno presenti inversioni termiche con zero termico a 2.800 metri circa. Il mondo del lavoro: nel 2023 l'occupazione dipendente nel settore privato, agricoltura e lavoro domestico esclusi, della regione è aumentata dello 0,6% a fronte di circa 2.100 unità in più rispetto all'anno precedente. Le cifre confermano la tendenza positiva iniziata nel 2015, interrotta solo in via momentanea dalla pandemia nel 2020. Nel confronto con il 2018 i lavoratori dipendenti con almeno una giornata retribuita in regione sono aumentati dell'8,1% con oltre 28.000 unità, secondo quanto emerge dall'elaborazione dei dati INPS compiuta dal ricercatore dell'IRES Alessandro Russo. Nello specifico sono i contratti a tempo indeterminato la tipologia contrattuale in maggiore crescita, che attestano nel quinquennio una crescita che sfiora il 10% con 24.200 unità in più, e un buon dinamismo è segnato anche dall'occupazione stagionale con un incremento del 30% e quasi 2.500 unità in più. Aumentano, ma in misura inferiore, anche gli occupati a tempo determinato, del più 1,2%, e in apprendistato quasi il 4%. Gli under 35 e gli over 55 sono stati avvantaggiati da dinamiche positive, mentre sono diminuiti gli occupati nella fascia tra i 35 e i 44 anni. I lavoratori ultra cinquantenni, in particolare, rappresentano ormai oltre un terzo del totale degli occupati dipendenti. La retribuzione media annua lorda nel 2023 è stata in regione di 24.203 euro, ma l'imponibile di poco più della metà degli occupati a tempo pieno si aggira sui 34.500 euro, collocando così la regione al sesto posto della classifica nazionale guidata dalla Lombardia, in cui il Veneto è quarto. Trieste risulta dodicesima tra le province con un reddito medio di quasi 26.000 euro, mentre in regione l'area isontina è quella che attesta l'importo più basso di 22.220 euro. Sul territorio il reddito medio è aumentato del 5,9% tra il 2018 e il 2023 rispetto al 6,6% della crescita nazionale. Rispetto alla dinamica dei prezzi, la variazione delle retribuzioni risulta decisamente negativa, con un dato del meno 9% in Friuli Venezia Giulia, sottolineando la generale perdita di potere d'acquisto dei salari. L'inflazione tra il 2018 e il 2023 è infatti salita del 16%. Santo Stefano sugli sci, pienone a Tarvisio, più di 3.500 gli appassionati, è arrivata la neve, ma si continua comunque a sparare quella artificiale. Santo Stefano sulle piste per tante persone in regione, la bella giornata di sole, le temperature non troppo calde stanno senz'altro aiutando. Siamo con Fabio Toscan, che è il direttore di Polo di Tarvisio, che ci dà un paio di numeri sorprendenti, soprattutto per quello che riguarda la giornata di oggi. Al momento abbiamo più di 3.500 primi ingressi registrati sui nostri impianti. Molti primi ingressi anche ieri, con la quota di 2.500 che è stata superata. È stato difficile, nonostante la nevicata per via del vento, riuscire a preparare le piste che portavano a valle. Ricordiamo che da oggi è aperta la di Prampero e anche la B, che porta in centro praticamente a Tarvisio. Sì, confermo, la di Prampero tutta la pista B con tutte le bretelle di collegamento. Quanto è difficile riuscire a preparare le piste con il vento per quello che riguarda la neve artificiale? Ricordiamo che nonostante la nevicata dei giorni scorsi è necessario sparare avanti la neve artificiale e programmare. È necessario per poter innevare al meglio le piste. Chiaramente nei giorni scorsi, con la presenza del vento, abbiamo avuto qualche difficoltà e abbiamo dovuto in qualche caso anche spegnere l'impianto, perché altrimenti la neve veniva spazzata fuori dalla pista. Non ci sono stati incidenti, però c'è anche tanta sicurezza sulle piste, si controlla soprattutto che non ci siano persone spericolate. Le nostre piste sono assolutamente sicure, però viene messo in atto un controllo sia dalle forze di polizia, dei carabinieri, ma anche dal personale di promoturismo che comunque presidia le piste durante la giornata. Tarvisio, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste è stata annullata l'edizione numero 48 del Santo Stefano Sub, la celebrazione della Santa Messa in immersione nell'area antistante Piazza Unità, negli spazi di Scala Reale, a mettersi di traverso le raffiche di bora. Santo Stefano sferzato dalla bora. Don Francesco Pesce non si è calato sott'acqua nella tradizionale campana perché le raffiche di vento erano troppo forti per permettere alla gru di operare in sicurezza. La messa è stata celebrata sull'altare allestito davanti a Piazza Unità, dove la preghiera è stata accompagnata dai canti del coro della parrocchia di San Vincenzo de Paoli. Aprirsi alla speranza, gentilezza e umiltà sono la chiave per cambiare il mondo, Don Francesco ha letto il messaggio di Natale del Vescovo di Trieste Enrico Trevisi ed ha poi benedetto i fedeli commentando che anche la bora fa parte del nostro morbin, cioè del carattere triestino, e con questo spirito ha affrontato le raffiche e si è tuffato in mare insieme a una decina di sommozzatori dei diversi circoli sub della regione. Ad accoglierli all'uscita dall'acqua gli alpini con una bella tazza di vino caldo. Trieste, Vaciucchi, GR Friuli Venezia Giulia. Santo Stefano, l'insegna dei musei aperti a Trieste, gettonatissima la mostra del fotografo Steve McCurry al Salone degli Incanti. Giornata festiva e ventosa che coincide con l'apertura dei musei, tante le opzioni, partendo dal Museo Costantino e Mafalda Pisani della comunità greco orientale di Trieste, parte della rete di Aperti per voi del Touring Club italiano. In mostra opere d'arte collezionate dalla borghesia greca, tra queste l'iconografia della tradizione religiosa. Questa religione rappresentata in questo modo è una cosa che ci, almeno personalmente, affascinato. Se scegliamo di vagare per la città e quindi quello che ci capita di vedere, vediamo, siamo curiosi. Porte aperte anche al Revoltella, interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nell'ambito del PNRR. Visitabile la suggestiva dimora baronale, incontriamo una famiglia russa della città siberiana di Omsk. Mi sembra che tamo di najbolzeminiu, che riesam nekolesheni. Matvi ci racconta che il Museo Revoltella è tra i più rappresentativi della città e che lo ha colpito molto, essendo anche la sua prima volta in visita in un paese estero. L'interesse maggiore lo genera la mostra del fotografo statunitense Steve McCurry al Salone degli Incanti. 150 fotografie, alcune inedite, entusiasmano i visitatori. Incredibile, un mondo inimmaginabile. Fino al 6 gennaio 2025 è in vendita a prezzo scontato di 15 euro la tessera annuale dei civici musei, valida 12 mesi, consente gli accessi limitati alle collezioni. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Trieste, città di spie, l'associazione Casa del Cinema ha organizzato una mostra visitabile fino al 24 gennaio in Piazza Duca degli Abruzzi che esplora la rappresentazione sul grande schermo della città del dopoguerra. Nel servizio l'intervista al critico cinematografico Gianluca Guerra. Ne ho viste tante di città, ma è la prima volta che vengo a Trieste. È una città interessante. Quello che durante la guerra erano Lisbona e Istanbul, adesso è Trieste. Spionaggio contro spionaggio, informatori, titini, antititini, stalinisti, antistalinisti. E in più 10.000 soldati inglesi ed americani, una popolazione simpatica ed entusiasta e marinai d'ogni paese. Il mondo in una città. Questo è Tyrone Power, mentre ascolta cos'era Trieste nel 1952. È una scena di Corriere diplomatico, forse il più famoso dei film di spionaggio e polizieschi che Hollywood, ma anche l'industria cinematografica italiana, hanno ambientato a Trieste. A queste produzioni è dedicata una agile mostra allestita nella Casa del Cinema di Trieste, curata da Tiziana Ciancetta e Gianluca Guerra. Trieste stava fra est e ovest, stava tra Unione Sovietica e Stati Uniti, stava sulla Cortina di Ferro. Era un luogo ribollente di interessi, di intrighi internazionali e il cinema si nutre di queste cose. Hollywood stava sull'indirizzo del governo militare alleato, questo mi riferisco al Corriere diplomatico. In vagone letto per Trieste, che è il primo film sulla guerra fredda, la vicenda è puramente avventurosa e si svolge sull'Oriente Express. E molte volte Trieste è rappresentata come stazione dell'Oriente Express, non ultimo in Dalla Russia con amore con 007. Le produzioni di Cinecittà invece presentavano le differenze che esistevano tra la situazione sociale all'interno del territorio governato dagli alleati e del resto d'Italia. È il caso di Inganno, una pellicola del 1952 di Guido Brignone, dove la protagonista è un agente della polizia civile del governo alleato. Agli ordini, sergente. Grazie, addio ragazzi. Ciao. All'epoca, nel resto dell'Italia, le donne non potevano entrare in polizia. La realtà sociale triestina, in realtà, più che il film, precede quella italiana di una decina d'anni almeno. Ed è curioso che un film italiano rappresenti questa realtà completamente estranea al resto d'Italia. La mostra Trieste città di spie è visitabile nei giorni feriali fino al 24 gennaio. Walter Scherck, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia di sport, il volley in Serie A2 maschile, oggi alle 18 gioca anche la Tinet Prata, ospite del volley tricolore Reggio Emilia. propone una rievocazione della natività della durata di 15 minuti, il presepio parlante dell'Associazione Repubblica dei Ragazzi, iniziativa in cui i visitatori assistono al racconto del Natale, narrato anche ricorrendo a un gioco di luci e a sottofondi musicali. L'allestimento, in occasione dell'inaugurazione odierna, proporrà anche l'avvio della mostra di quadri con il Natale nel cuore del gruppo artisti triestini Rivelart. Appuntamento a Trieste, a Palazzo Vivante, dalle 15.30 alle 18.30. L'allestimento sarà accessibile con questi stessi orari anche domenica 29 dicembre, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. La 24esima edizione della manifestazione di canti natalizi Nativitas prosegue con il concerto dell'Associazione dei Cori Parrocchiali di Gorizia, in cui saranno proposti brani di autori del territorio con il coro maschile in Duomo. Alle 15.30 il coro polifonico Antonio Foraboschi sarà protagonista del concerto in programma Palazzolo dello Stella nella chiesa parrocchiale alle 17 e quello femminile con le piccole voci di Ruda che animeranno il concerto di fine anno nella chiesa di Santo Stefano a Ruda alle 18.30. Infine il gruppo vocale Sileo canterà a Camporosso in Valcanale nella chiesa di Sant'Egidio Abate alle 21. Quindi edizione per il concerto solidale di Natale organizzato dalle associazioni del dono, cioè l'associazione donatori Midollosso del Friuli Venezia Giulia ADMO FVG, l'associazione donatori organi ADO di Gorizia, la Croce Rossa di Gorizia e l'associazione donatori volontari Sangue Isontina FIDAS. Sul palco il gruppo Harmony Gospel Singers, formati con l'obiettivo di diffondere la musica religiosa del gospel in un'iniziativa in cui il ricavato sarà impiegato in progetti utili alla comunità. Appuntamento a Gradisca di Sonzo al nuovo teatro comunale alle 18. Proporrà un concerto in cui il coro di sole voci maschili, affiancato da un ensemble formato da pianoforte, contrabbasso, batteria, fisarmonica e violoncello, la messa jazz in cui saranno eseguite musiche di Miani, Domini e della tradizione popolare. Protagonista il coro Natissa di Aquileia, che conta circa 30 coristi ed è diretto da Luca Bonutti. A San Giovanni al Natisone, nella chiesa di San Giovanni Battista, alle 17. Eseguirà musiche di autori friulani come Candotti, Pavone e Cordans il concerto di Natale organizzato dal coro Alpe Adria con l'orchestra dei giovani filarmonici friulani. In programma anche il Te Deum di Charpentier a Treppo Grande nella parrocchiale di Vendoglio alle 17. L'immaginario scientifico di Trieste informa che da oggi fino al 6 gennaio compreso sarà aperto nella sede del magazzino 26 in Porto Vecchio dalle 10 alle 18, restando chiuso solo lunedì 30 dicembre. Tra le iniziative speciali in programma, i quiz che saranno formulati su natura, fisica e chimica domenica 29 dicembre, la mostra sul fenomeno atmosferico dei tornado di domenica 5 gennaio e le dimostrazioni pratiche di fisica di cui fa uso la Befana, come la propulsione, di lunedì 6 gennaio. Ed è tutto per questa edizione di Santo Stefano. In redazione ha collaborato Cristina Polselli per la parte tecnica, in regia Riccardo Ostoic e Roberto Cavallari. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.